Come stiamo, Chiesa? Che bello vedervi, siamo pronti per ascoltare quello che Dio ha nel suo cuore di trasmettere alla sua Chiesa? Benissimo, e allora perché non preghiamo per questo momento, sì? Signore Gesù, io ti voglio pregare che tu possa in questo momento predisporre i nostri cuori alla tua parola, che possa mettere concentrazione nelle nostre menti e che soprattutto possiamo noi essere disposti, Gesù, ad ascoltare da te, ad imparare da quello che ci hai lasciato per iscritto nella tua parola e a viverlo nelle nostre vite. Perché vogliamo vivere una vita che ti onora, una vita che ti compiace e una vita che è al tuo servizio. E se sei d'accordo puoi dire amen con me? Amen. A quanti piace pescare? Papà, alza la mano che sei il protagonista di questa storia. Io non ho tantissimi ricordi della mia infanzia. Non lo so che cosa non funziona nel mio cervello, ma non mi ricordo quasi niente, solo insomma qualche evento così. Ma ho un ricordo molto molto vivido di quando papà insieme a mio nonno Walter ritornavano dopo aver pescato. Loro se ne andavano molto molto molto presto, di notte credo che andavate, giusto? Se ne andavano verso le 3 di notte e poi ritornavano verso, non so, le 7, le 8 della mattina e ritornavano con questi pesci che erano bruttissimi, ma era così bello pensare che insomma papà avesse catturato questo pesce e aveva così provveduto per quella che sarebbe stata la cena. Io in realtà ho sempre avuto un pensiero molto fiabesco di quello che doveva per forza succedere in questa barca, no? Un po' condizionata dal cartone animato Sanpei, non so se sì, la nuova generazione, no? Vi siete persi un grande cartone animato Sanpei, andatelo a vedere. E quindi non so, avevo tutta un'idea così particolare di quello che doveva succedere in questa barca con queste balene, squali, fino a che papà non ha ceduto alla mia domanda così insistente: papà, posso venire con te a pescare? Papà, posso venire con te a pescare? E papà mi ha portato, ti ricordi, papà? Eravamo io, credo che c'erano anche Walter e Gabriele, mio nonno non c'era, saggio uomo. E niente, è stata proprio una delle esperienze, da una parte più disgustose, che abbia mai, diciamo, sperimentato, un po' perché avevo tralasciato la presenza di questi vermi, di queste esche, di questi odori così forti che non vi sto neanche a raccontare. Dall'altra è stata una delle esperienze più noiose, effettivamente, cioè, perché mi era stato dato un divieto ben preciso, che era quello di, indovinate, di non parlare. Ma secondo voi, cioè a me, non parlare non è possibile. Perché mi era stata detta anche una bugia, perché io poi ho fatto le mie ricerche, ma papà mi disse: Noemi, se parli i pesci scappano. E io ci ho creduto, e invece non è così. L'ho scoperto, diciamo, avantieri, mentre stavo preparando questo messaggio. E insomma, quindi ho deciso da allora che insomma, avrei preferito il pesce pulito e possibilmente sfilettato direttamente dalla pescheria. Quanti sono d'accordo con me? Ah, bene, dove sono quelli che amavano la pesca? Sono spariti tutto in un tratto. Perché vi sto raccontando questa storia? Semplicemente perché i protagonisti del passo, no, della storia che andremo a leggere insieme questa mattina, non sono dei pescatori dilettanti e con la puzza sotto il naso come me, ma sono dei pescatori professionisti la cui vita è stata trasformata dal tocco divino di Gesù. E io ho questa preghiera molto semplice per la mia vita e per la vostra vita qui, che questa mattina, anche se non siamo dei pescatori professionisti, la nostra vita possa essere trasformata, possa essere equipaggiata, possa essere rindirizzata da quelle che sono le parole di Gesù, da quella che è l'autorità della sua parola della Bibbia e da quella che è la sua grazia sulla nostra vita. Amen? Lo volete insieme a me? Benissimo, quindi sapete che dovete proprio inondarmi di amen, brava, vai, continua così, anche quando saranno le 12:30, Noemi non ti fermare, continua a predicare, vero Mottola? Perché? Perché questo, perché Giovanni Lupoli mi ha minacciato dicendo che alle 12:05 blocca lo streaming e invece non sarà così, vero? Io guardo sopra ma devo guardare giù, è a te che sto dicendo. Quindi pronti? Leggiamo la storia, la leggiamo insieme e si trova in Luca 5 dal versetto 1 al versetto 11. Questa storia è riportata anche negli altri Vangeli, ma leggeremo quella riportata in Luca perché è più ricca di dettagli. Leggiamo insieme. Mentre li stava in piedi, e parla di Gesù, sulla riva del lago di Genezaret, e la folla gli si stringeva intorno per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti, ripeti, lavavano le reti. Montato su una delle due barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Quando ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro», immaginiamo, Simone è Pietro, quello che noi conosciamo che è Pietro, «maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai un pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Non è una storia meravigliosa? Lo so che io lo dico per ogni storia, e vabbè, mi dovete perdonare, ma la Bibbia è tutta bella. Ho avuto grande difficoltà nel strutturare questo messaggio, perché erano tante le ricchezze, tante le bellezze nascoste da ognuna delle parole che ci sono in questa storia. Però, siccome insomma non abbiamo tempo infinito, e questa non è una conferenza ma è un incontro, me lo devo ricordare, divideremo la nostra storia per studiarla, per capirla meglio e per applicarla alla nostra vita in tre parti. Ci siete? La prima parte si apre proprio con Gesù che è a riva di questo grandissimo lago ed è letteralmente proprio attorniato da questa folla che non vedeva l'ora, che aspettava, che era desiderosa di ascoltare la parola di Dio. Gesù proprio letteralmente non si poteva neanche muovere, perché erano così tante le persone che erano attratte da lui, che avevano bisogno del suo messaggio e che volevano sapere quale fosse la verità che Gesù stava predicando loro. E quindi di conseguenza Gesù che fa? Monta su una delle due barche che aveva visto a riva, affinché si potesse poi allontanare su questa barca, così per creare distanza con la folla. E tutti sappiamo che dal mare la voce si amplifica, non so per quale diciamo principio, non sono andata a studiarlo, però l'ho provato, era palese e veramente funziona, si amplifica la voce. Quindi Gesù si è procurato praticamente quelli che erano gli speakers, gli autoparlanti del tempo, e si è allontanato. Ma mi piace soffermare la mia attenzione, quindi anche la vostra, sul fatto che la Bibbia sottolinea che queste due barche che Gesù aveva visto erano a riva, e i pescatori che cosa stavano facendo? Stavano lavando le reti, il che era un qualcosa che i pescatori facevano sempre dopo aver pescato per tutta la notte. Quindi poi con il pescato si ritiravano a riva e quindi lavavano le reti per quello che sarebbe stato il lavoro della notte successiva. Ora il dettaglio è questo, che Simone con i suoi soci stavano lavando quelle reti, ma la notte appena passata non avevano pescato neanche un pesce. Immaginate, erano stati fuori tutta la notte, erano andati a lavoro, si erano impegnati, eppure si erano ritirati sconfitti, non avendo pescato neanche un pesce. Possiamo immaginare un po', diciamo, lo stato d'animo che Pietro e i suoi soci potevano avere quella mattina? Beh, certamente non sprizzavano di gioia, o no? Certamente non erano belli, soddisfatti di quello che avevano sperimentato, e non lo stiamo supponendo. In realtà Pietro non ci dà spazio di supporre proprio niente, perché glielo dice a Gesù e dice nel verso 5, se non erro: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, tutta la notte abbiamo lavorato, ma non abbiamo preso nulla. Maestro, tutta la notte ci siamo stancati, ci siamo affaticati, ci siamo impegnati e abbiamo provato una volta e una volta ancora, e ci siamo spostati a destra e poi ci siamo spostati a sinistra e poi ci siamo fermati al centro e abbiamo buttato le reti ancora e ancora e ancora una volta, ma non abbiamo pescato proprio nulla. Quindi adesso basta. Quindi mo stiamo lavando le reti e per oggi ormai è mattino, non si può fare più niente, ci siamo arresi per oggi. Basta così. Domani forse si pensa, ma adesso basta così. La sentite la delusione nelle parole di Pietro? La sentite un po' quell'amarezza, quel gettare la spugna che si nasconde dietro le parole: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte, ma non abbiamo preso nulla. Probabilmente noi non abbiamo mai sperimentato questo tipo di emozioni, perché siamo andati a pescare e non abbiamo preso niente. Ma certamente per ognuno di noi qui a Modugno, lì a Mottola, è molto molto semplice immedesimarci nelle parole di Pietro, in quello scoraggiamento, in quel dire: io ho fatto tutto quello che potevo, veramente tutto quello che potevo, ma non è cambiato nulla. Puoi pensare, ho riflettuto un po' a quando ho sperimentato questo tipo di sentimento, questo tipo di stato emotivo, e sono tante le possibilità, diciamo, le circostanze che incontriamo nella nostra vita, dove magari ci siamo così tanto impegnati, abbiamo così tanto pregato e abbiamo così tanto lavorato e ci siamo adoperati, e poi in quella situazione, per quel servizio, per quella persona, mamma mia quanto abbiamo creduto in quella persona, e poi non abbiamo raccolto i frutti che ci aspettavamo, anzi che non solo ci aspettavamo, per i quali abbiamo pure lavorato. Ti viene un po', no? Che ti senti un po' di rabbia, o no? Puoi pensare a quella persona con la quale da anni stai cercando di condividere il Vangelo di Gesù. Quel figlio, per il quale da anni stai pregando che si converta, che conosca Gesù, che venga in chiesa, che incominci ad abbracciare la vita meravigliosa che tu sai che Gesù ha per tuo figlio. Puoi pensare a quel collega di lavoro che hai invitato e a Natale come non me l'hai visto, e all'agosto come da Dio, alla festa della mamma, alla festa del papà, alla festa del nonno, magari non è manco papà però l'hai invitato, eppure non viene, ti rifiuta una volta e ancora una volta. E tu puoi dire, ma vuoi sentire? Mo le lavo queste reti, che ho fatto di tutto. Puoi pensare al tuo matrimonio, che non è così tanto meraviglioso come magari speravi fosse. E lui non cambia, e lei non mi capisce, e quindi per anni hai cercato di salvare la situazione, però non sta cambiando. Lui continua ad essere quello che è, lei continua ad essere quello che è, e tu hai scelto di lavare le reti, di dire ok, è così che deve andare, e stai aspettando l'inevitabile. Forse stai pensando alla chiesa, e veniamo di domenica in domenica, e all'incontro di condivisione, e all'incontro dei volontari, e a questo e a quell'altro, eppure la chiesa non cresce, è un po'... ti senti frustrato e un po' dici, ma boh, io sto facendo tutto quello che posso, mi sto faticando, mi sto stancando. Forse mo è buono che le lavo queste reti. La settimana scorsa ho prestato, diciamo, ho tradotto per un insegnante, un pastore del Canada che non conoscevo. E quindi la traduzione è stata online, no? Attraverso Skype. Insomma, conosco questo ragazzo, questo uomo, e veniamo a capire che noi abbiamo frequentato durante gli stessi anni il college. E quindi all'inizio è stato molto bello, poi però ho incominciato ad avere questa stessa frustrazione. Mamma mia, abbiamo frequentato lo stesso college. Io ho studiato di più, perché ho studiato di più. Eppure adesso, pensate un po' a cosa sono arrivata, da adesso lui sta predicando e io sto solo traducendo quello che lui ha da dire. Mo le lavo queste reti, non ci credo più a tutto quello che vorrei vedere, a tutto quello che vorrei fare per il regno. Siamo onesti qui, giusto? Io ho le cose mie e voi avete le cose vostre, quindi voglio dire, forse stai pensando al tuo gruppo in casa, a quanto ti prepari di settimana in settimana, a quanto studi, a quanto prepari tutta la casa e quanto investi. E poi sono sempre quei tre che vengono, sempre quei tre. Oppure la serata comunque non va come l'avevi pensata tu. E questo porta frustrazione, e questo porta stanchezza, e questo forse ti ha portato o ti sta portando a voler lavare le reti e dire sono stanco, sono delusa. Basta, ma faccio quello che è necessario, oppure faccio pure qualche passo indietro, perché tanto non cambia la situazione. La prima notizia bella che io ti voglio dare è questa, che Gesù sa come ci sentiamo, conosce la nostra delusione, conosce la nostra frustrazione e indovina cosa? Non ci giudica, non ci condanna. Permette tutto questo affinché Lui possa operare un miracolo nella mia vita e nella tua vita, nella mia famiglia e nella nostra chiesa. Amen? Lui vuole operare un miracolo, non solo può, ma vuole. Vuole incontrarci in quella delusione, vuole incontrarci mentre stiamo lavando quelle reti per dirci: ehi, buttale! Buttale quelle reti e fallo ancora una volta, perché io ho un miracolo in serbo per te, perché la delusione non ha l'ultima parola nella tua vita. Amen? La delusione, la frustrazione, la rabbia, la stanchezza non hanno l'ultima parola nella nostra vita, perché è Gesù che ha l'ultima parola nella nostra vita. Amen? Lo puoi dire a chi ti sta accanto: la delusione non ha l'ultima parola nella tua vita. Questo è proprio quello che... Papà, l'hai detto? Vito? Ok. Questo è quello che succede nella seconda parte della nostra storia. Che Gesù si avvicina a Pietro e ai suoi colleghi e dice: lo sto vedendo che stai lavando le reti. Però ascolta, prendiamo un po' il largo e getta di nuovo quelle reti. E Simone dice: maestro, quello che abbiamo appena detto, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola io getterò le reti. Ora dobbiamo un po' capire quello che sta succedendo qui. Non c'è cosa più antipatica, perlomeno insomma per quanto mi riguarda, di quando una persona incompetente viene da me e mi dice come devo fare il mio lavoro. Cioè proprio non lo riesco a... Devo chiedere molto autocontrollo quando questo succede, ecco. È un po' come se io andassi nella cucina di Elisa, e con le mie alte competenze culinarie, che non esistono, le dico: guarda Elisa, secondo me devi aggiungere un po' di questo, guarda che la fiamma non è troppo... Ma cosa? Ma come? Come posso fare una cosa del genere? È un po' come quando le mamme dei miei alunni vengono e mi spiegano come devo insegnare non ai loro figli, ma ai figli delle loro amiche. È un po' particolare come situazione. E questo è quello che succede in questo momento, a questo punto della storia, che Gesù, un carpentiere, ok, era il figlio di un carpentiere, quindi lui quel mestiere aveva imparato, giusto? Va a Pietro, che non è solo un pescatore così. Pietro è figlio e nipote di pescatori. Suo padre era pescatore, suo nonno era pescatore, i suoi figli sarebbero stati pescatori. Cioè lui sapeva perfettamente quello che stava facendo, quello che era successo il giorno prima e quello che non era possibile succedesse in quella mattina. E quindi è comprensibile la risposta di Pietro, che dice... Cioè, immaginatevelo, insomma, io mi rivedo molto in Pietro, devo dire la verità. Ci sono tanti che si rivedono in Gesù, in Paolo, io mi vedo in Pietro proprio. Che dice: maestro, su coraggio, dai maestro, per cortesia. Cioè, io sono un pescatore e io lo so quello che sto facendo. Tu, insomma, ti ho sentito predicare, guarda, posso riconoscere anche un talento che hai nella comunicazione, bravo, continua così, però... Le cose mie, falle fare a me. Cioè, tutto il mondo sa che i pesci la notte vengono a galla e quindi noi con le reti possiamo pescarli. Il giorno, siccome fa caldo, i pesci vanno più a fondo. Quindi adesso è inutile che... Anzi, non è inutile. Non è logico che noi buttiamo adesso le reti. Non serve. Non è un qualcosa che si fa. È inutile e non è logico. Fino qui la risposta di Pietro, per quante ne vogliamo dire, è lecita, è giusta, ma è quello che aggiunge dopo che ha del sovrannaturale, che è speciale, perché dice: secondo la tua parola io getterò le reti. Pietro è stato ubbidiente. Lui ha chiamato Gesù maestro. Maestro, ci siamo affaticati. L'ha chiamato maestro perché lui conosceva, stava incominciando a conoscere Gesù e l'aveva sentito predicare e stava incominciando a capire che c'era qualcosa di speciale in Gesù. Maestro era una persona che Pietro rispettava e che Pietro voleva ascoltare. Pietro è stato ubbidiente ed è la sua ubbidienza, ascoltami bene, è la sua ubbidienza che ha fatto sbloccare il miracolo della pesca miracolosa. Perché? Perché non c'è nessuna eccezione a questo. Dio benedice sempre l'ubbidienza. Lo fa dall'inizio dei secoli e lo continuerà a fare fino a quando lui ritornerà. Dio benedice la tua ubbidienza. Dio benedice la mia ubbidienza, che quando anche non è logico, anche quando ho questa attitudine un po', dice: ma che cosa mi stai facendo fare? Però ubbidisco. Dio benedice. Noè ha ubbidito, ha costruito l'arca e il mondo si è salvato. Abramo ha ubbidito, è partito per un paese sconosciuto e il popolo di Dio è stato eletto. Mosè ha ubbidito, è andato dal faraone e il popolo è stato liberato. Gesù ha ubbidito al Padre, è morto per te e per me e noi abbiamo vita eterna in Lui. Dietro la tua ubbidienza c'è il miracolo, sempre. Non so come, non so dove, non so quando, ma Dio benedice la tua ubbidienza. Lo fa e lo fa sempre perché è chi Lui è. Non vuole fare a meno di benedire la tua ubbidienza. Ed è quello che ha fatto proprio con Pietro. Le reti si sono rotte per quanti pesci hanno pescato. Non una barca, due si sono riempite. E io, sempre per colpa di Sanpei, nella mia mente, sempre quando ho letto questa storia, mi immaginavo, sai questa barchetta, sai quelle che ci sono a Santo Spirito? No, arriva, carine, io quelle mi immaginavo. Ma non è così. Non è così, andate a fare qualche ricerca. Queste barche erano importanti, erano proprio delle barche grandi, profonde, ampie. Non una, due barche Gesù ha riempito con il suo miracolo. E forse non è logico che Gesù ci stia chiamando a non lavare le reti in quella situazione specifica o relative a quella persona specifica. Non è logico, però ce lo sta chiedendo. Quale sarà la nostra risposta? Gesù, dai, maestro, su, per cortesia, che ci ho provato tante volte, mo che differenza fa? Sono stanco, basta. Non prego più per mio marito, ma prego per mio zio, che forse sono più fortunata. Quale sarà la nostra risposta? Non è logico, ma secondo la tua parola io getterò le reti. Non è logico continuare a credere che il mio matrimonio possa essere salvato da Gesù. Non è logico che io continui a perdonare e a pregare per mio marito. Non è logico che io continui a perdonare e a pregare per mia moglie. Ma secondo la tua parola io lo faccio. io getto quelle reti. Non è necessariamente logico continuare a servire, ad adoperarsi per la nostra Chiesa. Non è necessariamente logico. Ma fratelli, sorelle, amici, lasciare tutto non è la soluzione. Non è la soluzione. La soluzione è continuare. Butta quelle reti e fallo un'altra volta, ti sta dicendo Gesù. Getta quelle reti e fallo un'altra volta. Vai a servire da capo. Non lasciare il tuo servizio. Vai al gruppo, guida il tuo gruppo. Vieni in chiesa, dai la decima. Dai, fai, stai e fallo un'altra volta. Perché dietro la tua obbedienza c'è quel miracolo. E Dio non ha cambiato idea per quello che riguarda la nostra Chiesa. Dio non ha cambiato idea per quello che riguarda le nazioni e le persone che devono conoscerlo e vuole servirsi di noi. Per questo gettiamo Chiesa le nostre reti e facciamolo un'altra volta. Non ci arrendiamo oggi. Non indietreggiamo. Non molliamo la presa. Perché Dio non ha finito nell'evangelizzare, nel condividere Gesù alle persone, non lavarle quelle reti. Continua a testimoniare, continua ad invitare, continua a fare la differenza, continua ad essere un ambasciatore di Gesù, perché questa è la tua missione. Perché questa è la mia missione. Altrimenti che cos'è che vogliamo fare? Laviamo quelle reti e poi? E poi? Mottola. Quanti siete oggi? Non lo so. 15, 20. Ce ne sono 15.000 di persone lì. Non laviamo le nostre reti. Continuiamo. Continuiamo perché è per questo che siamo vivi. È per questo che siamo su questa terra. Getta le reti e fallo un'altra volta e un'altra volta ancora e un'altra volta ancora fino a che Gesù non decide di fare quel miracolo nella tua vita. E quel miracolo l'ha fatto e non sono i pesci, ve lo dico. Dimmi, ma cosa stai dicendo? Mi hai dato due barche? È un qualcosa di più profondo dei pesci, lo volete sapere? Ho 2 minuti e 12 per dirvelo. Terza parte della nostra storia. Il miracolo succede, ok? E le barche si riempiono. E Pietro, dopo quel miracolo, riceve una rivelazione più profonda di chi Gesù, di chi aveva davanti, di chi Gesù era. Vedete il testo con me. Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte. Maestro, dopo il miracolo, come lo chiama Gesù Pietro? Signore, Signore, allontanati da me perché io sono un peccatore. Da maestro Gesù per Pietro dopo il miracolo è diventato Signore. Pietro aveva capito che Gesù non era solo un maestro da rispettare e da ascoltare, ma Gesù era il Signore da adorare e al quale ubbidire. Questo è il vero miracolo. Questo è il vero miracolo che Gesù vuole fare, come ha fatto nella vita di Pietro, lo vuole fare nella mia vita e nella tua vita, che di sfida in sfida, nell'atto di ubbidire, di gettare quelle reti una volta e una volta ancora e una volta e una volta ancora, noi capiamo di più chi Gesù è, noi ci innamoriamo di più di chi Gesù è nella nostra vita, nel nostro cuore e per la vita degli altri. Questo è il vero miracolo. I miracoli che Gesù fa non sono solo volti o mirati a, risolvere la situazione o a trasformare la tua delusione in gioia o la tua amarezza in danza. Non è solo quello che Dio, che Gesù vuole fare. Non vuole solo premiarti per quanto ti sei adoperato, ma Gesù vuole allargare il tuo cuore grazie ai miracoli che lui fa. Vuole portarti non semplicemente a rispettare, a rispettarlo, ma vuole portarti ad adorarlo. Non vuole solo che tu ascolti i suoi comandamenti, vuole che tu, che noi ubbidiamo e ci prostriamo a lui. Questo è il vero miracolo. Questo è per questo che Gesù ha permesso che Pietro con i suoi colleghi passassero tutta la notte senza pescare niente. Che non pensate che Gesù gli poteva dare due pesciolini la notte prima? Ma Gesù ci porta, a volte permette che arriviamo a un tal punto che solo il suo tocco può trasformare il nostro cuore e la situazione, così che poi automaticamente la gloria, il ringraziamento, l'adorazione, il servizio, la dedicazione, la santificazione, la consacrazione va e succede per lui, per chi lui è. Di che cosa ci possiamo vantare se non del fatto che lui è il Signore della nostra vita? Di cosa? Per questo lui ci invita oggi, e io sono proprio convinta di questo, che ci sta invitando a non arrenderci. Per quella persona con la quale condividi il Vangelo, ehi, non ti arrendere. Per il tuo matrimonio, ehi, non ti arrendere. Per la chiesa, per il tuo gruppo in casa, per i tuoi colleghi, per qualunque cosa Dio ti abbia promesso e che tu non vedi ancora con i tuoi occhi concreti, non ti arrendere. Getta le reti e gettale un'altra volta. Forse non è logico, ma Gesù te lo sta chiedendo. Così che tu possa chiamarlo da maestro a Signore e possa dare la gloria solo ed esclusivamente a Lui. Amen. Perché non chiudiamo i nostri occhi? E fra qualche istante noi avremo la possibilità di vivere e di partecipare alla cena del Signore. E io vorrei che partecipassimo a questo momento così importante, così biblico, prendendo proprio una decisione personale. Una decisione che io prego non rimanga un desiderio, ma prego che domani si possa trasformare in azioni, in parole, in appuntamenti, in chiedere perdono, in cominciare a servire, in iscriversi al percorso 1, in cercare un gruppo, in tutto quello che Gesù ti sta chiedendo. Viviamo questo momento prendendo proprio un impegno. Un impegno con Gesù e digli: Gesù, io in questo, per questa persona, per questa situazione, mi rendo conto che ho lavato le reti o comunque sono molto vicina a farlo, ma io voglio ubbidire al comando che tu oggi mi stai dando e non voglio lavarle quelle reti, voglio buttarle e buttarle ancora una volta in attesa del tuo miracolo che mi porterà ad adorarti di più e di più ancora. La cena del Signore ci ricorda del sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Con il pane noi ricordiamo il corpo che Gesù ha dato per la nostra salvezza, e con il sangue noi ricordiamo il sangue che Gesù, scusate, con il vino ricordiamo il sangue che Gesù ha versato per il perdono dei miei e dei tuoi peccati. Ed è solo in virtù di quel sacrificio che noi oggi possiamo avere quella speranza di buttare le reti e buttarle ancora una volta e attendere il miracolo. Se non sei ancora battezzato in acqua da adulto, allora io ti invito a rimanere al tuo posto e a pregare, a stare in presenza di Gesù, a prendere il tuo impegno con Lui. Se tu invece sei stato battezzato da adulto, allora ti invito, dopo che avrò pregato, a partecipare a questo momento della cena del Signore per prendere un impegno preciso, concreto, con Gesù, di scegliere di buttare le tue reti una volta e una volta ancora. Amen. Signore Gesù, grazie per la tua parola, grazie perché tu ci equipaggi, grazie perché tu ci spingi sempre un po' di più a vivere la vita miracolosa che tu ci chiami a vivere. E io ti prego per questo momento che stiamo per vivere insieme, che approcciandoci alla cena del Signore possiamo prendere un impegno con te, Gesù, alla luce della rivelazione che tu ci hai dato attraverso la tua parola. Io benedico il pane, benedico il vino e benedico ogni persona qui presente, che tu possa continuare a parlare, Gesù, in accordo con la tua volontà.